voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Gandalf, my old friend, this will be a night to remember. Visto che nel precedente stacco, che è il secondo spezzone cinematografico di questa settimana, avete sentito nominare Gandalf, dovreste aver probabilmente capito qual è il film, perlomeno la serie di film che caratterizza questa settimana, se non il film specifico. Giulio Caperduni in vostra compagnia anche per la seconda parte di Eclettica di questa nuova settimana, sia sulle frequenze di Rock FM che anche, non so come dire, su internet via podcasting, beh sì, potremmo dire così, che ha aperto con un nuovo pezzo dei My Scars, che non è nuovo in senso assoluto, ma è nuovo per le nostre playlist, archiviato, per così dire, Introducing the Liquid Pets, in quanto inserito nella classifica delle migliori 10 di Eclettica del 2006, siamo andati a scoprirne una nuova, Underwater Slug, che vi siete appena ascoltati. A proposito di musica interessante italiana di questo periodo, anche se qua c'è un tocco francese, andiamo a sentire anche Mocha da parte dei Grey Moon. Chauffer. façon, nous, on n'a besoin de rien. Prends ton sac et dépêche-toi. Sappiate che il libro che vi accingete a leggere è pieno di problemi irrisolti e domande senza risposta. Non offre una conclusione univoca, dove tutto risulta chiarito per filo e per segno. Non da parte mia, almeno, perché non posso dire di sapere che cosa accadde esattamente, o perché, o semplicemente come cominciò e se ebbe una fine. Mi ci sono trovato coinvolto mio malgrado. Ora, se a voi non piace questo genere di storia, sono dolente, ma farete bene a non leggerla. Io non posso far altro che riferirvi quello che so. Questo era l'incipit dell'Invasione degli Ultracorpi di Jack Finney. L'eclettica strabica, come l'ho definita nella prima parte, è uscita così spontanea e penso che me la tirerò dietro per un bel po' di tempo, nel senso che un occhio punta al passato e un occhio punta al futuro. Per esempio abbiamo guardato cosa succederà dal 22 di gennaio in poi, grazie alla Drag City. Voi sapete che le antenne di Eclettica sono sempre ritte a cogliere i segnali che provengono da qualunque parte del mondo e dal Giappone di tanto in tanto, e ne è stato dato riscontro anche nella classifica con la presenza di Mono, di tanto in tanto appunto trova spazio se c'è del valore, se c'è della qualità, se c'è del sentimento. Ghost è il nome della formazione, che nacque ormai parecchi anni fa come formazione basata solo sull'improvvisazione, poi con strumenti acustici, soprattutto basata sul folk, e col passare degli anni, arrivati all'inizio 2007, avete sentito come è variegato il loro suono in questa Caledonia, che è la traccia numero 5 delle 6 che sono contenute all'interno della versione in CD. Nella versione poi nell'EP in vinile ce ne sono diverse. L'album, ve lo ripeto, esce il 22 e si intitola In Stormy Nights. Invece noi ritorniamo su un album già ascoltato la settimana scorsa, uscito in tributo a David Bowie, che proprio settimana scorsa ha compiuto i 60 anni. Repetition Bowie si intitola, ed è stato organizzato dalla Mietwinger, mettendo assieme un po' di artisti italiani o adottati, per così dire. Lo dico perché il brano in questione, la versione di China Girl, è da parte di Simone Meneghello, ma anche di David Maldone. Shine. world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it. E siamo quasi arrivati anche alla seconda parte di Eclettica. Vi ricordate, già vi ho detto più volte come il 2006 fosse stato caratterizzato per quanto riguarda la More Music, a mio modesto parere, solo da una bella prova discografica, proprio quella ad inizio d'anno di Electric President. È ancora prematuro poterlo dire per il 2007, me ne rendo conto, ma proprio in questi giorni esce un bel disco a nome More Music, che almeno a un primo ascolto mi sembra aver abbastanza soddisfatto, che è quello che fra l'altro vi siete ascoltati voi stessi. L'artista in questione si chiama Benny Hamm, trovate il dettaglio in playlist, che è soprattutto necessaria per andare a scoprire il titolo del brano che vi siete appena ascoltati, cantato in islandese. Non mi ci provo neanche con quella somma di J e di O accentate a pronunciarlo. Andate e trovate sulla playlist, per quanto riguarda la giornata di oggi, il dettaglio del titolo. Album dal titolo Kayak, che esce a seconda dei giorni, fra il 19 di gennaio e il 6 di febbraio, più che a seconda dei giorni, a seconda delle nazioni per quanto riguarda l'uscita. Un'altra novità di questo mese di gennaio è quella a nome Matt Elliott, che magari qualcuno di voi ricorderà sotto lo pseudonimo Third Eye Foundation, una figura emblematica della scena elettronica inglese, e che ora si sta ritagliando uno spazio invece in ben altri territori musicali, quelli che non vado a definire venire, perché ve li state per ascoltare, appunto con il suo nome all'anagrafe, Matt Elliott. Era uscito un po' di tempo fa con un album, Drinking Songs, questo invece si chiama Failing Songs, e quella che chiude la seconda parte di Eclettica si intitola Desamparado. Thank you. Eclettica, fine della seconda parte.